Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare e umbrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di me. Da piangere in tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così bello.